Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Molta tensione, no, molto interesse su Telecom Italia in borsa, è un caso di borsa, è un caso anche per quello che riguarda la cronaca di questa giornata, dopo un articolo presente sul quotidiano Repubblica che ipotizzava un accordo di fatto all'interno di un rapporto di scambio, diciamo, italo-spagnolo, perché gli spagnoli potessero anche aumentare la loro quota. Riepilogo le puntate precedenti: Telecom Italia è controllata da una società, da una holding dentro a cui gli spagnoli Telefonica hanno la maggioranza relativa. Dicevo, dopo questa ipotesi il titolo è schizzato, è passato di mano più del 10% del capitale e vale adesso 1,13 euro, in rialzo del 5,4%, smentite da Telefonica, smentite dal governo, la Consob ha chiesto spiegazioni anche al governo, ma insomma tutti smentiscono, ma il mercato ci crede. Molto forte anche Mediobanca, più 5,3%. E anche qui ne parleremo. Saipem più 4,6, Banco Popolare più 4,5, Impregilo più 3,6, Unicredito più 2,6, Prismian più 2,5 come Autogrill, e il Monte dei Paschi, Tenaris più 2,1, Parmalat più 2 come Finmeccanica. L'1,80 lo guadagna ST Microelectronics, ma anche Mediaset, bene anche Fondiaria più 1,3 e Mondadori più 1%, come Buzzi Unici, la Popolare di Milano e Intesa San Paolo e Lottomatica. E Ansaldo STS, che ha dato notizia poco fa di essersi aggiudicata un contratto per 130 milioni di 300 milioni di euro per realizzare l'elettrificazione, la segnaletica della metropolitana di Copenaghen. Ecco perché il titolo sale ancora. Tra chi perde invece Exor meno 1,3 e poi Pirelli meno 1,3, Lecir meno 0,90, Ubibanca meno 0,70%. Complessivamente quindi, con questi numeri, Piazza Affari oggi è la borsa più positiva di tra quelle europee, guadagna 1,5%, Parigi più 1,2, Francoforte più 0,80, Londra più 0,6, l'America guadagna 0,5%, l'euro a quota 1,3945. Parleremo, ma nella seconda ora, di Telecom Italia, delle ipotesi sia sul fronte italiano che sul fronte spagnolo, e poi parleremo in apertura subito di petrolio, perché oggi l'Unione Petrolifera Italiana ha diffuso i dati sul consumo energetico, fabbisogno energetico e quant'altro, e avremo modo anche di discutere dei prezzi della benzina rispetto ai prezzi del petrolio. Ancora, per quello che riguarda i temi che affronteremo dopo il petrolio, parleremo di un accordo che può sembrare minoritario, però va nella linea di un risparmio energetico, di minori emissioni dopo il porto di Civitavecchia. Anche il porto di Venezia e quello di La Spezia hanno firmato un accordo per ridurre, abbattere le emissioni delle navi una volta che entrano in porto, un accordo con l'Enel, per cui le navi, da quello che abbiamo capito, si alimenteranno elettricità e non a combustibile interno, con un grosso risparmio. E ci interessa intanto portare anche qualche esempio positivo. 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria, alcuni di voi vogliono anche ascoltare quello che ha detto ieri il ministro Tremonti durante un convegno organizzato dall'Aspen e assieme all'ISPI sulle banche. Lo riascolteremo, abbiamo un estratto dell'intervento di Giulio Tremonti. Per quello che dicevo, le altre notizie: il petrolio è a $74,7 al barile, la Toyota continua a richiamare macchine per via dell'acceleratore, ne ha richiamate 180.000 in Africa, Medio Oriente e America Latina, che vanno a sommarsi ai 2.300.000 macchine ritirate in America e 1.800.000 auto ritirate in Europa. Ed è chiaro che a questo punto è la stessa Toyota a dire che vede a rischio l'obiettivo di centrare i suoi target, i suoi obiettivi di vendita nel 2010. Perché insomma le vendite dovrebbero arrivare a 8 milioni e 300 mila veicoli, però insomma vuole capire quale sarà l'impatto. Cala per il secondo mese consecutivo in Germania il mercato dell'auto, -4%, ed è -4% rispetto al gennaio del 2009. Praticamente è il peggior risultato mensile da quando esiste la Germania Unita, dall'unificazione di Germania Est e Germania Ovest. È precipitata la domanda di auto nuove in Germania dopo settembre, a seguito anche dell'esaurimento dei fondi che il governo tedesco aveva messo a disposizione, quasi 5 miliardi di euro come incentivi appunto al rinnovo, alla rottamazione del parco circolante. Sono circa 500 gli operai dell'Alcoa di Porto Vesme che arrivati questa mattina a Roma hanno raggiunto il centro storico, dove si sono incontrati con i 200 lavoratori dell'Alcoa di Fusina, e nel pomeriggio è iniziato un corteo da Piazza Venezia che andrà fino a Piazza Colonna. Aspettano in sostanza l'esito del confronto a Palazzo Chigi tra governo e azienda. L'incontro è fissato alle 20:30, poi domani ve lo racconteremo. Abbiamo avuto ospite la settimana scorsa il sottosegretario Saglia, che segue con attenzione e ha la delega proprio su questa vicenda. Nel frattempo il testo del disegno di legge energia, che contiene tra l'altro le norme relative ad Alcoa, il governo cosa ha proposto? Ha proposto di ridurre potentemente del 50% il costo dell'elettricità per le aziende che sono stabilite in Sardegna e in Sicilia, dove c'è un costo più alto della media italiana, ne abbiamo già parlato altre volte. E quindi la proposta per fare in modo che Alcoa non chiuda il suo stabilimento sardo è di far pagare meno l'elettricità. Alcoa, che è una multinazionale americana, un numero 2, se non ricordo male, o 3 al mondo nell'alluminio, ha detto: non ci fidiamo, perché c'è il rischio che Bruxelles vi bocci questa iniziativa come aiuti di Stato. Allora, ecco perché parliamo del testo del disegno di legge energia. È arrivato oggi sul tavolo della Commissione Europea, la Commissione, la parte antitrust, ha già iniziato a guardare il provvedimento. Devono capire appunto se questi sconti sulla bolletta energetica fatti all'Alcoa, proposti all'Alcoa, a patto che poi accetti di avere l'interruzione di elettricità quando ci sono i picchi, se possono essere considerati aiuti di Stato oppure no. Molti di voi già scrivono su Telecom. Allora, ribadiamo. Oggi il quotidiano della Repubblica scrive di nozze a breve tra Telecom e Telefonica, dicendo che gli spagnoli vorrebbero lanciare un'offerta pubblica di scambio, e il mercato ci ha creduto. Però aggiunge Repubblica, ci sarebbe via libera del governo italiano, perché è fondamentale questo per l'operazione. Palazzo Chigi oggi, sempre in mattinata, ha detto: non c'è nessun contatto, non c'è nessun incontro e non c'è nessun paletto, come è scritto nell'articolo, da parte del governo, perché nell'articolo si diceva che l'unico vincolo posto dal governo sarebbe stata la gestione della rete nazionale di telecomunicazioni, che sarebbe dovuta restare a controllo italiano, quindi si scorporava la rete resta italiana, la società di servizi, quella che mette sulla rete i contenuti, diventava di fatto spagnola. Però il titolo continua a correre: nemmeno Telefonica ha voluto commentare l'ipotesi di fusione. Ora, che Telefonica non voglia commentare è cosa ben diversa da Telefonica che smentisce. Andiamo avanti. Mediobanca, volete sapere anche di Mediobanca? È ovvio che qui c'è un'altra vicenda di cui abbiamo già accennato, c'è l'ipotesi di fusione, anche di questo hanno scritto i giornali, tra Mediobanca e Generali poco mossa. Il mercato si muove su questa ipotesi, ma qui forse ancora più là da venire, anche se poi i giochi si vedranno da aprile in poi. E Mediobanca invece ha smentito che siano prive di alcun fondamento, e quindi destituite da ogni fondamento le notizie di stampa su un'operazione in cui si andrebbero a fondere Mediobanca e Generali. Allora, partiamo con il primo tema di oggi, e mi riferisco all'energia, bilancio di come è andato l'anno, la bolletta energetica. bilancio 2009 con un forte calo nella bolletta energetica, che non è sempre un male. Pagare meno elettricità sopra non va male, soprattutto pagare meno quella che si importa. Il problema, mi sembra di capire, che qui la bolletta energetica è calata perché le industrie hanno lavorato meno e quindi hanno consumato meno elettricità, e questo sì è un male. Pasquale De Vita, Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, buonasera. Buonasera a lei. Oh, è un po' che non ci sentiamo, eh? È un po' di tempo, sì. Scommetto che le siamo mancati, però insomma, andiamo, prima di discutere sul movimento del prezzo del petrolio e del prezzo della benzina, restiamo sulla bolletta energetica, perché voi oggi avete diffuso i dati sulla fattura energetica e noi abbiamo comprato all'estero molto meno rispetto al 2008, praticamente 18 miliardi, se ho ben capito, e mezzo in meno. Esatto, 18 miliardi e mezzo come bolletta energetica nel suo insieme. Abbiamo risparmiato. Bolletta petrolifera, di cui 12 miliardi circa di parte petrolifera e i 6 miliardi e mezzo fra gas e carbone, eccetera. Allora, per quello che riguarda la bolletta complessiva, siamo a 41,4 miliardi, giusto? Esatto, l'anno scorso. Esatto, esatto. E questo erano 59 l'anno scorso, quindi. E lì si arriva ai 18 miliardi in meno. Esatto. Questa lasciamo stare per voi, ma per noi è una buona o una cattiva notizia? Perché abbiamo comprato meno energia fuori, ci siamo indebitati di meno. E infatti la bilancia commerciale. Io direi che è un pezzo buono e un pezzo cattivo. È buona la parte che riguarda la diminuzione del prezzo unitario, quindi costa meno ogni barile di petrolio, e questa è buona. La meno buona è che se ne sono consumati di meno, il che significa che l'industria ha tirato di meno, che i servizi hanno tirato di meno, e quindi è il risultato di quello che tutti chiamiamo la crisi. Questo è. Quindi una parte non è buona, diciamo così. Quello che mi interessa è anche un'altra cosa, cioè, nella bilancia commerciale l'abbiamo visto, il vantaggio di aver speso meno soldi per comprare energia all'estero paradossalmente ha fatto migliorare la nostra bilancia commerciale, anche se le esportazioni sono calate meno delle importazioni. Le previsioni sul 2010? Ma le previsioni purtroppo non sono molto buone, perché abbiamo già cominciato l'anno con lo stesso ritmo. Non mi pare che ci siano grandi indicazioni di ripresa, direi che poi ci sono due componenti, la componente negativa è questa, appunto, che la ripresa mi sembra che ci sia, ma è abbastanza lenta. La componente positiva è che questo tipo di crisi ha spinto tutti a cercare di ridurre, quindi di ottimizzare i sistemi, di aumentare l'efficienza energetica, di rivolgersi a fonti un po' diverse. E questa è una riduzione in termini di consumi che è positiva per il Paese, ma che poi rimane nel settore con una diminuzione di attività. Quindi ha la sua criticità per il settore, anche se nell'insieme è un fatto positivo. Allora, per quello che riguarda poi l'andamento dei consumi di energia, voi siete riusciti a scorporare anche qual è la parte più relativa ai consumi familiari e quella invece dei consumi dell'industria? Perché, ripeto, se abbiamo risparmiato un po' perché si temeva la crisi, non è di per sé stesso male. Se invece tutto il calo di questa bolletta, di questa fattura energetica è dovuto alle industrie che hanno prodotto meno, beh, lì sono dolori. Prevalentemente però è industria. Tutte industrie. Comunque abbiamo consumato meno petrolio, meno 6,6, ma anche gas meno 8% e carbone meno 2,4%. Anche il fatto che sia calata la domanda per carburanti, cioè benzina e gasolio, di 1 milione di tonnellate, lei lo attribuisce all'autotrasporto, cioè all'industria? Quello è autotrasporto, quello sicuramente è autotrasporto. E quindi è l'autotrasporto pesante, ma diciamo che anche la famiglia ha usato un pochino di meno la macchina, probabilmente anche la domenica, le gite, qualche cosa si è tagliato anche da questo punto di vista, quindi il trasporto è la parte più consistente, ma gli usi familiari pure hanno dato il loro contributo alla riduzione. Un'altra domanda e poi passiamo al tema che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori, cioè il prezzo della benzina e il prezzo del petrolio. Visto che noi venivamo da un consumo, da una fattura energetica di 59 miliardi, sì. siamo scesi a 41, quest'anno dite che sarà a 47, che vuol dire che il recupero dell'attività produttiva c'è, ma è ancora... Perché nel frattempo è risalito anche il prezzo del credito, ecco, rispetto alla media, quindi c'è stata un'impennata, perché noi abbiamo toccato il punto più basso a metà verso la fine dell'anno scorso con 30, 32, 34 dollari, e adesso siamo di nuovo fra 70 e 80, quindi scontiamo quello, non è una ripresa di tanto di consumi quanto purtroppo una ripresa di prezzo. C'è stato un calo anche nel valore del downstream, cioè delle raffinerie, no? Il settore raffinazione e distribuzione del petrolio ha avuto perdite sopra il miliardo di euro l'anno scorso? Esatto, tutto il sistema della distribuzione e della raffinazione in Italia, cioè l'attività svolta in Italia da tutte le società petrolifere nel loro insieme, ha prodotto una perdita quest'anno, nel 2009, di un miliardo circa, anzi più di un miliardo di euro. Questa è una situazione che purtroppo crea un grossissimo problema, soprattutto sulla parte industriale, perché noi abbiamo un sistema di raffinazione che ha lavorato sempre al ritmo di 85-90 milioni di tonnellate all'anno, e quest'anno ci siamo persi, già negli ultimi anni ci siamo persi 15 milioni di tonnellate, quindi c'è stata un'edizione dovuta sia alla riduzione dei consumi, ma soprattutto al fatto che ormai da altre aree del mondo, tipo prevalentemente Estremo Oriente, India, Cina, Corea, stanno arrivando dei prodotti finiti, e quindi questo per quanto riguarda il nostro mercato, stanno arrivando prodotti finiti sui mercati dove le nostre industrie esportavano, per esempio gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti per anni sono stati dei grandi importatori di benzina che veniva fornita dall'Italia. Adesso questa importazione è calata di molto, quindi noi abbiamo un problema che è proprio il futuro del sistema di raffinazione. Se noi mettiamo insieme nei prossimi anni le riduzioni dovute al famoso 20-20-20, ossia europeo, questa riduzione dei consumi, riduzione delle emissioni, noi arriveremo che nell'insieme il sistema di raffinazione perderà dai 20 ai 25 milioni di tonnellate di attività. E questo significa che 3 o 4 o 5 raffinerie, adesso dipende da quali sono le dimensioni, crescono, cioè praticamente non avranno più possibilità future. Perché, ripeto, noi abbiamo prodotti che vengono da queste provenienze, dove i costi sono molto più bassi, lo sappiamo tutti perché la manodopera costa meno, i costi sono molto più bassi perché l'ambiente lì non conta, quindi tutto quello che noi abbiamo, noi il 60% degli investimenti delle nostre raffinerie è fatto per problemi ambientali, lì questi costi non ce l'hanno. Allora, e quindi arrivando qui mettono in crisi, ma non soltanto noi, non è un problema italiano, è un problema europeo e americano. Dunque, cosa vuol dire? Questa parte del mondo, che una volta era quella che era più avanzata, in questo momento è diventata invece il mercato di sbocco di operatori dell'estremo oriente. Cosa vuol dire che ci sono 7500 posti di lavoro a rischio, Presidente De Vita? Il conto è stato fatto molto così. No, perché in questo periodo, diciamo, parlare di lavori a rischio non è il massimo. Quello non è un messaggio di domani mattina, attenzione. Qua si dice che se va avanti questa situazione non si trova un miglioramento, è difficilissimo da prevedere perché non si prevede un miglioramento di questa situazione, cresceranno queste 5 raffinerie nel medio-lungo termine. E la domanda è stata, ma cosa significa in termini occupazionali? La risposta è, se consideriamo che ogni raffineria occupa tra le 4 e le 500 persone e che con l'indotto si triplica questo numero, perché questa è la situazione, e se sono 4-5, ecco, quello è il conto che è stato fatto, non è che ci sia un problema di domani mattina. No, è che non vorremmo che iniziasse adesso una specie, lo dico senza offesa, una specie di gara nei vari settori, dire ci sono 10.000 posti a rischio, 7.000 a rischio, io però vorrei chiarire una cosa. Abbiamo bisogno, dica. Noi non chiediamo nulla, tanto per essere chiari, non è che qui stiamo dicendo, siccome ci sono questi a rischio, dateci i soldi, tanto per essere chiari. Non è questo, è soltanto un'informazione, visto che abbiamo fatto il punto della situazione. Quindi noi al massimo quello che possiamo chiedere, lo chiediamo, è un aggiustamento delle norme per quanto riguarda le procedure, per quanto riguarda la rapidità. Cerchiamo di non avere tempi biblici, perché se c'è un certo numero di raffinerie che si deve chiudere, bisogna stare attenti che su quelle che restano ci sono massicci investimenti da fare, perché bisogna adeguarle alle nuove regole e alle nuove caratteristiche dei prodotti. Quindi abbiamo chiusura da una parte e massicci investimenti. Ecco, chiamiamo perlomeno che le norme siano chiare, che trasferiamo in Italia le norme europee senza aggravarle e renderle ancora più farraginose, trasferiamole, copiamo quello che fanno gli altri. Allora, cerchiamo di renderci la vita più difficile. Allora, copiamo... noi non chiediamo sovvenzioni a nessuno. No, va bene. Copiamo quello che fanno gli altri anche come differenza di prezzo benzina. Certo, eccoci. Certo. Adesso arriviamo al tema che sta più a cuore a noi e anche a lei. La doppia velocità. Che cos'è la doppia velocità? È un'accusa che sta mossa spesso a chi vende benzina e chi rappresenta appunto il Presidente De Vita di avere una grossissima sensibilità e velocità ad alzare i prezzi quando il petrolio sale e una grossa lentezza o resistenza ad abbassarli quando il petrolio scende, fermo restando che il prezzo del petrolio incide solo per un terzo sul prezzo della benzina. Allora, adesso ascoltiamo anche cosa disse a inizio, praticamente un mese fa nemmeno, Antonio Catricalà, che è presidente dell'antitrust, sulla doppia velocità. E poi lei ci aiuterà a capire anche delle cose che io statisticamente non riesco a capire. Comunque sentiamo Catricalà. Credo che questa politica dei prezzi che scendono con la velocità di una piuma e che salgono con la velocità di un razzo abbia qualcosa di distorto. Non sono riuscito a dimostrare il contrario di quello che provavano, che le aziende hanno dimostrato con studi alti quanto un bambino di 19 anni e quindi sostanzialmente circa 2 metri, che questo meccanismo è forzato. Loro dicono che è un meccanismo di mercato che non sempre funziona così. Sono riusciti a dare una prova dal punto di vista scientifico della bontà delle loro ragioni. Dal punto di vista razionale io non riesco a capire perché quando sale il prezzo del greggio sale immediatamente il prezzo. Esatto. E questo non riesco a capirlo, però da un punto di vista tecnico, giuridico ed economico non ho la prova che questo sia un illecito. Allora, così il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà. Presidente De Vita, vediamo di capirci, perché ne abbiamo parlato per anni di questa cosa. Però, oltre alla velocità, alla doppia velocità, molto veloce a salire, molto lenta a scendere, mi può spiegare perché il picco, parlo del petrolio, nel 2009 si è raggiunto il 23 ottobre a $85. Dal picco del petrolio del 2009, dal 23 ottobre ad oggi, c'è un meno 12%. La benzina, dal 23 ottobre ad oggi, costa il 2% di più. Allora, mi deve far capire, oltre alla doppia velocità, anche la mancata corrispondenza, perché o si allineano subito o si allineano a distanza. Com'è che la benzina costa il 2% in più se il petrolio costa un 12% in meno? No. Dunque, innanzitutto ci sono degli errori metodologici. Per chiarezza, noi non dobbiamo prendere il raffronto fra il prezzo della benzina in Italia e il prezzo del greggio. Noi dobbiamo prendere il raffronto, lo stiamo predicando in tutte le sedi, fra il prezzo della benzina in Italia e il prezzo della benzina sui mercati internazionali. Allora ci deve essere coerenza, perché quella è la base sulla quale in tutto il mondo si fanno i conti. Quindi il prezzo della benzina sul mercato internazionale e quello italiano lo abbiamo dimostrato con quei fasciconi che il presidente Catricalà chiamava alti quanto un ragazzo di 19 anni, che il tempo e il ritmo della crescita e il ritmo della diminuzione è identico. Noi abbiamo fatto su questo una sfida ai consumatori, alle associazioni di consumatori, abbiamo presentato degli studi fatti da istituti esterni che hanno ricostruito un anno i movimenti del prezzo della benzina sul mercato interno e il prezzo della benzina sul mercato internazionale, c'è coerenza assoluta salvo un 10% sul gasolio, questa è stata la differenza. Per il resto è esattamente coerente, abbiamo messo questi numeri sul tavolo, abbiamo chiesto alle associazioni di consumatori di criticarli. Stiamo ancora aspettando la risposta. Vabbè, però adesso Presidente, voglio solo capire, cioè le ho fatto l'esempio. Lei dice no, non si deve guardare il massimo del petrolio, allora noi raccontiamo balle, perché ogni volta che diciamo che la benzina sale perché il petrolio è ai massimi non dovevamo dirlo, e non dovremmo dire che la benzina scende nella quota di petrolio del 30% perché il petrolio scende. Ma per esempio, cioè a metà dell'anno scorso, 11 maggio, il petrolio era a $57 al barile, basso. La benzina era ai massimi da 7 mesi, restava fissa a 1,259 euro al litro. Anche questo io non capisco, cioè come mai, faccio un altro esempio, dal 6 al 14 agosto il petrolio scende da $72 a $70 al barile, la benzina passa da 1,280 euro a 1,304 euro, anche lì è strano, una cosa scende, l'altra sale. Lei perché non prende prende anche il prezzo della benzina. Se lei prende il prezzo della benzina, che è il listino internazionale, tutti questi suoi dubbi se li toglie sicuramente. Prenda il prezzo di riferimento corretto, perché questo qui del greggio, le spiego anche perché. Ci sono momenti, anche se nei grandi movimenti c'è coerenza fra greggio e prodotti, ma ci sono dei momenti in cui il greggio sale, per esempio di prezzo ovviamente, e la benzina scende. Perché? Perché in quel momento il mercato americano, grande importatore di benzina, non tira. Cioè il mercato americano in un certo momento ha le scorte alte e non tira benzina. Anche se il greggio sale, la benzina scende. E qualche volta viceversa. Se invece il mercato americano tira, il greggio è fiacco, la benzina sale. Quindi bisogna andare a prendere il prodotto. Se prendete il prodotto, noi abbiamo 2 milioni di grafici, abbiamo fatto anche in maniera visiva, chiara per tutti. Si vede che le due linee corrono parallele, mercato internazionale e mercato interno. Le ripeto che il discorso del prendere un giorno di greggio, noi l'abbiamo spiegato ai consumatori, non ci rispondono, perché continuano naturalmente a blaterare su questa faccenda. Che si cioè, mi scusi, quindi la prossima volta che vedo il prezzo della benzina o del gasolio schizzare, magari sotto Natale o quando ci sono le vacanze di Pasqua, sono tutti malizie, ci mancherebbe, però quando c'è il grande spostamento di traffico, vedo il prezzo della benzina schizzare, non devo più guardare il prezzo del petrolio, perché tanto quello non conta, mi sta dicendo. Sì, signore. Devo guardare il prezzo della benzina su base europea. Perfetto. E se scopro com'è successo che aumenta il differenziale, che devo pensare? Non lo scoprirà, non perché non c'è. Non c'è. Il differenziale... Sicuro. Lei guardi che le oscillazioni sono sempre intorno a quel tre centesimi e mezzo che tutti sappiamo essere il delta strutturale. Intorno a quello. Si può arrivare un giorno al 4 e un giorno al 2. Questo è, ma parliamo di giornate. E quindi questo è perché l'oscillazione non è fatta con lo cronometro naturalmente, i mercati si muovono, però se andiamo a vedere, lei prende un grafico, glielo farò avere, guardi, le farò avere tutti i grafici che riguardano l'andamento del prezzo internazionale e l'andamento del prezzo interno. Comunque, sono contento perché non si smette mai di imparare, lo dico in maniera molto seria, perché adesso ho scoperto per la prima volta che per anni abbiamo detto che il prezzo della benzina si muoveva come conseguenza del prezzo del petrolio, che quindi bisognava andare a vedere... Se il prezzo stava a 80, 100, 120 dollari al barile, avremmo avuto la benzina in rialzo, conseguentemente, che se invece scendeva sarebbe scesa, invece scopro che non c'entrano niente, sono disallineati, dipende dal prezzo medio della benzina europea. Esatto, quello è mondiale. Del prezzo medio della benzina mondiale. E lì il prezzo del petrolio c'entra o non c'entra? No, c'entra il grande movimento, certo che è coerente. Beh, insomma, mica tanto a quello che abbiamo detto. Il 12 maggio. Con il 12 maggio del greggio non coincide. No, ma lei ha ragione. Io parlavo dei 7 mesi, per esempio. Cioè, lei se prende 7 mesi, l'andamento è sicuramente coerente. Vabbè, a noi non ci risulta, però a questo punto che dobbiamo fare? Avremo anche i mesi sbagliati. Le darò tutte gli elementi, così la prossima volta che ci sentiamo ragioniamo avendo sotto mano gli stessi elementi. Vabbè, sì, dopo anni magari sarebbe anche il caso. Che dice? Buona serata e buon lavoro al Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita. Vabbè, qualcuno dice allora c'è un cartello, vabbè, che il prezzo del petrolio si muova non su cartello ma su base internazionale, è vero, però io ogni volta, questa è una specie di anguilla, non è un tema, ogni volta che uno cerca di afferrarla sfugge da un'altra parte, se la benzina è alta perché il prezzo del petrolio è alto, se la benzina non è bassa abbastanza per nonostante il calo del prezzo del petrolio perché il mercato internazionale della benzina è diverso, se non ci sono gli adeguamenti subito, di solito la spiegazione è che sono futures, quindi contratti futuri, che però i contratti futuri sono molto sensibili quando sale, meno sensibili quando scende. Noi ci stiamo provando da anni a uscire da questa o a afferrare l'anguilla, evidentemente non siamo dei bravi pescatori. Dice a 7:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora parliamo di borsa e poi anche di chiaramente Telecom Italia. Non torniamo più sul petrolio perché insomma tanto ogni anno cerchiamo di capire il tema. Chiarisco solo un concetto a chi scrive 349-238-6666. si dice che non influisce solo il petrolio, perché il 70% del prezzo della benzina sono tasse, IVA e accise varie. E la parte variabile è il 30%, però abbiamo scoperto oggi che nemmeno quella è così variabile sul prezzo del petrolio, ma conta il prezzo internazionale della benzina. Molti di voi scrivono: ma non è mai successo che con il petrolio in aumento la benzina calasse? Avete ragione, nemmeno io me lo ricordo, però a questo punto evidentemente non ho abbastanza grafici. Non ho abbastanza grafici perché oggettivamente noi abbiamo sempre visto la benzina muoversi con qualche distanza, con qualche spazio temporale con il prezzo del petrolio, e oggettivamente abbiamo sempre visto muoversi molto molto più lentamente quando il petrolio calava. Ma non possiamo stare ancora su questo tema. Volevo dare un paio di aggiornamenti su alcune notizie con cui abbiamo aperto il programma. Allora, la prima notizia riguarda una notizia di borsa, perché ricordavamo e citavamo l'accordo di Finmeccanica. Ebbene, tre commesse sono, non solo quella di Ansaldo STS, che vale comunque 180 milioni per l'esercizio e la manutenzione della metropolitana di Copenaghen, metropolitana che non avrà l'autista e quindi la parte di segnaletica sarà molto importante e di elettrificazione, però altre commesse le ha vinte il gruppo Selex, Sistemi Integrati e DRS Technologies, per un totale a quel punto di 300 milioni di euro. Correzione ancora, sempre non dipende da noi ma dall'agenzia ANSA, che ha fatto una rettifica: non è passato di mano il 3%, il 10% del capitale di Telecom Italia, che obiettivamente è una cifra monstro, ma noi tale l'abbiamo presa dall'agenzia, ma il 3%. E poi una notizia che invece non ci piace dare, ma purtroppo è una notizia frequente in questi giorni: a Gioia Tauro 8 lavoratori sono saliti nel porto Gioia Tauro su una gru occupando una delle 22 gru presenti nello scalo calabrese. Protesta decisa oggi dopo la sospensione delle relazioni sindacali che erano riprese nella sede dell'Assoindustria di Reggio Calabria. Ci sarebbero 400 lavoratori che rischiano la cassa integrazione ordinaria. Vabbè, la borsa oggi qualche notizia positiva ce la dà: più 1,8% Milano, più 1,3% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,70% Londra, quanto a rialzo percentuale. Sentite già da questi dati che Milano è la migliore in assoluto, il motivo si chiama Telecom Italia e le ipotesi non commentate da Telefonica, non smentite, smentite invece dal governo italiano, che vi sia un accordo perché Telefonica lanci un'offerta pubblica di scambio per acquisire il controllo definitivo e non solo relativo di Telecom Italia, che ha guadagnato il 6%, ma visto che di questo parleremo nella seconda ora, salterei in questo momento il tema, il motivo è chiaro di questo rialzo, e mi sposterei subito su Mediobanca, più 5,90%, perché tutti si concentrano su Telecom Italia, però le grosse scommesse di una fusione Mediobanca Generali mi sembra che siano state l'altro grosso tema della seduta. Guido Maurino, Radio Corri Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sì, come dicevi tu, questa ipotesi di fusione fra Mediobanca e Generali ha scaldato soprattutto il titolo Mediobanca, che ha guadagnato il 5,9%. Va detto che comunque la notizia è stata poi smentita con una nota ufficiale di Mediobanca. Piazzetta Cuccia ha sottolineato che non sono state convocate, né sono previste riunioni degli organi sociali per le determinazioni da assumere in vista dell'assemblea di Generali. Insomma, anche questo rumor, questa indiscrezione è stato smentito sul finale della seduta. Il titolo, che era arrivato a guadagnare anche più del 6%, ha avuto una piccola flessione, ma sostanzialmente è ancora chiuso con un forte rialzo oggi. Insomma, oggi è il quotidiano La Repubblica che ha mosso la borsa, perché sia l'ipotesi Telecom che quella Mediobanca erano su Repubblica, quindi vabbè, andiamo avanti. Banco Popolare molto bene, titolo più 4,90%, benissimo anche Saipem, più 5,21%, tocca di nuovo 25 euro per azione, e il Banco Popolare torna sopra i 5 euro per azione. Saipem e Banco Popolare. Allora, per quello che riguarda Saipem, c'è soprattutto un effetto del petrolio che è tornato oggi sopra i $75, guadagna oltre il 2%, e questo ha riportato un po' acquisti su tutto il settore. Anche Eni ad esempio ha guadagnato, anche se molto meno, più 0,88, però ecco, su Eni pesa anche il fatto che insomma da Israele il Premier ha sottolineato come la società non andrà avanti nei suoi investimenti in Iran, quindi porterà a termine quelli per cui è già in corso un lavoro, ma non svilupperà la cosiddetta terza parte, quindi insomma questo ha penalizzato un pochettino di più il titolo, però oggi tutti gli energetici diciamo che sono andati bene col petrolio. Sì, per quanto il petrolio diciamo, non abbia avuto un particolare, se non vorrei fare tutta la puntata sul petrolio e il prezzo della benzina, però $74 in rialzo, per carità, dello 0,4%, non so, delle volte anche la borsa cerca spunti quando dovrebbe dire che forse un po' di rotazione. Molto bene Unicredit più 3,3, Impregilo più 3,90, lo dicevamo, Autogrill più 2,80, Tenaris più 2,7, Prismian più 2,5 come Monte dei Paschi, Finmeccanica l'abbiamo spiegato, più 2,1. Mediaset più 2, Steamer Electronics più 1,80 come Parmalat, Intesa 1,5 come Generali, Fondiaria più 1,2 come Mondadori, l'1% lo guadagna la Popolare di Milano e anche Buzzi Unicem, ma anche Atlantia e Unipol, e poi Enel più 0,90 come Eni, Ansaldo più 0,80. Negativa ancora Exor meno 1,6, Pirelli meno 1,4, CIR meno 0,70%. Deboli sempre sui dati delle matricolazioni tedesche, sia Fiat che Exor, debole anche Pirelli, per quale motivo? Questi dati? Questi dati, ma va anche sottolineato che venerdì scorso la società aveva annunciato lo stop al progetto di integrazione fra la controllata nell'immobiliare Pirelli Re e Fimit, per cui insomma sono state due sedute non esaltanti per la bicocca. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora chiudiamo l'approfondimento sulla borsa, Guido Maurino, con Green Vision, il miglior titolo più 13%, investimento e sviluppo più 12,3%, Pramac più 10%, poi Marcolin più 6,5%, il peggior titolo Meride meno 4,90%, L'Oreal meno 4,80%. Una domanda, abbiamo visto che tantissimi titoli di settori diversi sono andati così bene, come mai questa reazione del mercato al di là della vicenda Telecom, Mediobanca, petrolio su Saipem? Ma diciamo che in generale c'è una maggiore fiducia in questo momento sui listini, anche se diciamo che è una fiducia a tempo che andrà misurata soprattutto con i dati che usciranno in settimana. E poi diciamo che gennaio non era stato un mese buono, per cui sono tre sedute adesso consecutive in cui i listini sostanzialmente hanno iniziato a tentare un piccolo rimbalzo che bisognerà vedere quanto sarà possibile confermare con le prossime sedute e con i dati che usciranno da qui alla fine della settimana. Sì, va detto che anche le altre borse, sebbene non così bene come Milano, ma si sono mosse molto bene, diciamo Parigi più 1,3, Francoforte più 1 e ancora Londra più 0,70, l'America più 0,6%, euro a quota 1,3953. Grazie a Guido Maurino di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Riprendiamo il tema dell'energia, visto che poi avremo molto spazio per Telecom Italia e varie fusioni, ma anche per il ministro Monti sulle banche di ieri. Alcuni di voi vogliono riascoltare un pezzo dell'intervista con Sorte, vediamo se ci staremo dentro. Energia sarà anche una piccola cosa, però oggi Enel, il porto di La Spezia e il porto di Venezia hanno firmato un accordo per, dopo Civitavecchia, avere altri due porti che andranno a ridurre del 30% le emissioni di CO2, del 95% quelle di azoto e azzerando l'inquinamento acustico per quello che riguarda le navi che transitano nel porto. E stiamo parlando del decimo porto passeggeri, Venezia, 1.900.000 passeggeri, primo nel Mediterraneo per croceristi, 30 milioni di tonnellate di merci scaricate, e La Spezia che ha 19 milioni di tonnellate di merci scaricate, 12° porto italiano. Siamo in collegamento con il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa. Buonasera. Buonasera. Allora, presidente Costa, l'accordo che oggi avete firmato voi, il porto di La Spezia, con il gruppo Enel, porterà l'Italia ad avere il secondo e il terzo porto verde, già c'è Civitavecchia, e Civitavecchia insomma ha già un porto elettrificato, ma ci può raccontare nel dettaglio come si arriva a battere del 95% le emissioni di particolato e di azoto, l'inquinamento acustico e anche del 30% di CO2? Naturalmente l'accordo che facciamo oggi è il porto verde energetico, certo, perché le attività da porto verde che abbiamo messo in piedi affrontano anche altri aspetti, anche altri settori. E lo dico perché noi già da 2 anni abbiamo un accordo che si chiama Blue Flag, cioè una bandiera blu, con la quale volontariamente le navi che entrano da noi usano soltanto combustibili con 0.1 di zolfo e quindi producono già un po' meno di quello che potrebbero fare secondo le leggi esistenti. Il passo in più che facciamo è che anziché mantenere i motori accesi con non più né quello che possono fare né nemmeno quello che volontariamente fanno, ma chiudendoli del tutto e quindi fornendoli da terra l'energia elettrica, una espressione inglese che si chiama cold ironing, stirare a freddo, insomma non so bene qual sia il motivo di questa definizione, noi riusciamo a fare questo abbattimento. Naturalmente l'abbattimento consiste nel fatto che però naturalmente l'energia che l'Enel ci dà o che chi ci aiuterà a farlo consentirà di fornire viene prodotta con un effetto di CO2 che è più basso di quello che sarebbe dentro al porto. Quindi, se ho ben capito, le navi entrano in porto, quindi alla Spezia, appunto 19.000 tonnellate di merci, Venezia 19 milioni di tonnellate di merci, Venezia 30 milioni, entreranno, questo vale anche per le navi passeggere, immagino? No, vale soprattutto per le navi passeggere. Soprattutto per le navi passeggere. Abbiamo sette accosti possibili. E siccome sono navi da 3.000 persone, 3x7, 21, più gli equipaggi, siamo 5x7, 35, e come un paese 35.000, una città 35.000 persone, in più e in meno. Abbiamo stimato che il consumo energetico delle sette navi contemporanee è di poco inferiore a quello del centro storico di Venezia, dell'intero centro storico, quindi però non siamo di fronte a poca cosa. Bene, se questo anziché l'energia necessaria per mantenere queste 35.000 persone in porto, che ricordo vuol dire riscaldamento d'inverno ma vuol dire anche il condizionamento d'estate, se anziché farlo con i loro motori lo fanno attaccando una spina, perché l'energia gli viene fornita da terra, beh evidentemente la cosa cambia completamente dimensione. E devo dire che dovremmo avvicinarci a questo risultato perché, ripeto, la dimensione di cui stiamo discutendo è una dimensione diciamo da 35-40 mega, cioè vale la centrale elettrica, insomma, il consumo energetico. Ecco, un dettaglio, le navi quindi utilizzando energia elettrica e non il loro combustibile anche per entrare in porto, se ho ben capito, non solo una volta che sono arrivate in porto e devono alimentarsi. Allora, loro hanno delle... Io speravo onestamente che Copenaghen imponesse anche qualche limite in più sulle navi quando circolano in mare, ma comunque lì hanno loro. Dal momento in cui entrano in porto, in questo momento hanno un accordo con noi volontari in cui riducono o devono, quando si muovono dentro la laguna di Venezia, devono adoperare combustibili a basso tenore di zolfo. Come arrivano, chiudono anche questo e di zolfo non se ne parla più. E quindi di zolfo, per dire lo zolfo, insomma non è serio per tutte le altre cose. Certo. Tutti gli effetti che abbiamo detto. Siccome l'energia di cui hanno comunque bisogno viene comunque fornita da qualcun altro, qualcun altro è per esempio il fornitore Enel, il quale lo produce con degli effetti di CO2 NOx che sono del 30% più basso. Questo l'ho capito, volevo capire come curiosità anche mia, tecnicamente la nave quando entra in porto spegne i motori, di fatto c'è la sua combustione e si attacca che cosa? Un cavo? Spegni i motori, c'è una specie di pannello intermedio, loro devono essere attrezzati, anche questo è un problema che adesso noi cominceremo con preparare un paio di molli sui sette per questa operazione, poi andremo avanti progressivamente, la nave arriva, spegni i suoi motori, quella parte che teneva accesi per continuare a fare, per scaldare l'estate o per rinfrescare d'inverno o per far andare tutti gli altri marchigiani che ci sono, attacca la spina e riceve l'energia da terra. Ma una volta che è in banchina a questo punto? Una volta che è in banchina. Ok, senz'altro. Non per entrare in porto, diciamo. No, mentre entra in porto, insisto, vale quell'altro accordo. Vale l'altro accordo per cui quello che riduce, che non possono adoperare in porto da noi lo stesso combustibile che adoperano in mare. Grazie all'ex sindaco di Venezia, in collegamento con noi Paolo Costa, presidente del Porto di Venezia. 18:08, seconda parte di Focus Economia. I temi che affronteremo di questa giornata economico-finanziaria si chiamano appunto Telecom Italia, soprattutto il caso di borsa assieme a Mediobanca Generali, però prima alcuni di voi ci hanno chiesto, e volentieri vi facciamo ascoltare, di poter ascoltare il passaggio del ministro Tremonti ieri, che nel corso di un convegno organizzato all'ISPI a Milano, c'era anche il presidente di Confindustria Marcegaglia, avete ascoltato i nostri GR questa mattina, è tornato sulle banche. Il convegno in realtà era sugli Stati Uniti, era più in generale, ma è tornato sul tema del mondo bancario e sostanzialmente dicendo che, insomma, una frase che poi oggi molti giornali hanno ripreso, è un giudizio sul ruolo delle banche e il ruolo della politica, che però è contenuto, per questo lo facciamo riascoltare per esteso, anche all'interno di un ragionamento sul cosiddetto Basilea 3. Sarebbe l'evoluzione di Basilea 2, che già ha avuto molti problemi, un sistema per dare in cui le banche devono essere capitalizzate in un certo modo o patrimonializzate in un certo modo per dare crediti, e un modo anche per valutare la bontà di chi chiede un prestito in banca. La critica è che con la crisi che abbiamo attraversato questo sistema è troppo rigido, in gabbia. Secondo i criteri di Basilea 2 pochissime imprese italiane potrebbero ottenere credito, ma la storia di un'impresa non si fa solo con gli IAS, con le tabelline, si fa anche conoscendo quello che è la serietà dell'imprenditore e la storia anche passata di un'impresa. Comunque sentiamo Giulio Tremonti, che si riferiva anche a quanto discusso nel vertice di Davos che si è chiuso domenica scorsa. Difficile pensare a una ripetizione di Bretton Woods, ma è inutile o dannoso pensare che la prossima crisi si evita con la tecnica. E questo pone una grande questione. Poi dipende da dove dici le cose, se le dici nei luoghi di lavoro o nei luoghi di vacanza. L'impressione è che i banchieri al lavoro o in vacanza, locali o centrali, facciano qualcosa che non è il loro mestiere, e simmetricamente che i governi non fanno qualcosa che invece è il loro dovere. Difficile mettere intorno a un tavolo, su alcuni codici giuridici e economici e mercantili, i G20, però quella è la via giusta. E quando la presidenza italiana del G7 e G8, insieme con l'OCSE, ha cominciato a scrivere, e continua a scrivere, che l'Italia ha la ministeriale del G8 quest'anno, dell'OCSE proprio per quello, cerchi di mettere giù un testo di super trattato. Naturalmente può sembrare un esercizio velleitario, ingenuo, comunque difficilissimo mettere insieme un super treaty, però è il contributo che puoi dare in senso positivo. Poi dovranno essere i governi, gli accordi, ed è il senso dell'intervento fatto sulla montagna incantata o da quelle parti dal Presidente della Repubblica Francese, che è stato l'unico intervento politico di grande rilievo. Il resto è altro, e ripeto, è un po' una asimmetria, per cui uno non fa le cose che dovrebbe fare e gli altri fanno a loro volta le cose che non dovrebbero fare. Tutto il processo è in atto, c'è, e chiudo, un pezzo di quel processo che è stato invocato, che sarebbe come Basilea 3, o qualcosa di simile, non so chi di voi ha in mente che cosa è. Quando volevano fare Basilea 2 dissi che sarebbe stato meglio Basilea 1,5, e adesso tutti dicono che è stato un errore. Basilea 3 è la via diretta per produrre, dove viene applicata, il credit crunch, che è uno dei fattori di crisi delle economie. Se uno fa direttamente come è scritta, è automaticamente quella roba lì. Questa è l'opinione del ministro Tremonti, sia sui banchieri che sui politici, ma anche e soprattutto sull'ipotesi di continuare ad applicare criteri rigidi come quelli di Basilea nel decidere come concedere il credito con la crisi che si è generata. Credit crunch è la restrizione di credito, che è stato uno degli elementi che hanno fatto fermare, spegnere come un interruttore l'economia tra fine 2008 e inizio 2009. Banca e politica, non nel senso in cui intendeva Tremonti, ma il tema resta e anche qui rispondiamo ad alcune richieste vostre. L'intervista di Raffaella Calandra con Consorte, poi la potete ascoltare tranquillamente nel fine settimana, l'intervista per esteso. Ieri Consorte ha avuto la sua prima comparsa in procura in Palazzo Giustizia a Milano e andrà in onda alle 13.30 nella rubrica Storiacce, quella contro Raffaella Calandra. Però anche qui Consorte parla del rapporto tra banca e politica, ma di tutt'altro genere, non come i politici che devono dare le regole e i banchieri applicarle. Parla dell'ipotesi, secondo la procura, di un patto occulto dietro la fallita scalata di Unipol a BNL, ricorderete quell'estate quanto mai turbolenta, e ha detto Consorte: ora mi diverto io, perché insomma, in quattro sentenze su vicende collegate a questa scalata è stata smentita l'esistenza di un patto occulto. Sentiamolo al microfono la nostra Raffaella Calandra. Ci sono quattro sentenze di tre corti di appello che dicono che l'operazione BNL era assolutamente trasparente. I veri problemi sono nati dopo l'approvazione del prospetto per il lancio dell'opo obbligatorio. Mi farò interrogare e racconterò tutto quello che so. C'è un riferimento non soltanto finanziario ma ad un contesto anche politico ben preciso. Sono convinto che l'operazione BNL sia stata boicottata da forze economiche e politiche che non lo volevano. Anche per la nascita del Partito Democratico. Gli elementi che ho mi fanno dire che a un certo punto io sono stato abbandonato e sacrificato in virtù di interessi cosiddetti politici superiori all'operazione BNL. Questo al di là di quanto potesse sembrare leggendo le famose intercettazioni. Le famose intercettazioni, io dico meno male che c'erano, perché sono state utilizzate da quattro corti di appello e hanno dichiarato che dalle telefonate si capisce benissimo che non c'era nessun sottoaccordo, ma anzi le telefonate dimostrano che gli accordi non c'erano. Devono essere sentite tutte quelle persone che dopo il 18 luglio, quando fu approvato il prospetto informativo, a vario titolo si sono interessati della vicenda. Quindi ci sono quelli che l'hanno appoggiato e quelli che invece l'hanno cercato di affossare, e hanno vinto questi qui. Io credo che quando si va in un tribunale e il pubblico ministero cambia il capo d'accusa in corso di udienza preliminare sia un fatto abbastanza anomalo. Rispetto agli spagnoli che si costituiranno qui parte civile. Con gli spagnoli c'è stata una trattativa e ho anche chiarito bene che la trattativa l'hanno rotta loro e che se la trattativa si fosse conclusa questa vicenda BNL avrebbe avuto una piega del tutto diversa, ovviamente, perché non avremmo mai lanciato l'opo obbligatorio. Se lei dovesse dire un suo errore anche di strategia nella gestione di questa operazione. Probabilmente sono stato ingenuo nel pensare che un'operazione industriale importante, valida, che sarebbe servita al paese, poteva essere condotta in quanto tale. Pensavo che un rapporto preventivo con gli organi di controllo fosse sufficiente a garantire la bontà dell'operazione. In realtà in Italia non è così e bisogna probabilmente muoversi in un altro modo, avendo appoggio e relazioni. Così Giovanni Consorte, appunto, è imputato, 27 sono gli imputati, tra cui gli ex vertici di Unipol e l'ex governatore della Banca d'Italia, Fazio, per la scalata o tentata scalata la BNL. Ora Consorte ingenuo, così lasciatemi avere qualche dubbio, poi il resto della ricostruzione ci mancherebbe, è la ricostruzione dovuta e legittima di uno degli imputati. Antonella Olivieri, dalle scalate tentate alle operazioni così per ora solo sulla carta. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Parliamo chiaramente di Telecom Italia e Telefonica, ti chiedo ancora un minuto di pazienza perché c'è un'informazione sul traffico, però leggo una notizia assieme a te che le agenzie hanno appena battuto, riguarda il fronte argentino in questo caso, e cioè la Corte di Giustizia di Buenos Aires ha cancellato una risoluzione che obbligava Telecom Italia a cedere la propria partecipazione in Sofora, che a sua volta controlla Telecom Argentina, per cui non ha l'obbligo di vendere la partecipazione in Sofora. Con te invece parleremo di questa cosa su cui il mercato scommette tantissimo, più 6% Telecom Italia oggi, ossia che Telefonica lancerà un'offerta pubblica di scambio per acquisire la parte maggioritaria restante di Telecom Italia, smentita via libera dal governo, stesso. Telefonica però si trincera, come si dice in questi casi, dietro il no comment. Allora, riepilogo delle puntate precedenti, praticamente dallo scorso 18 gennaio, a parte che le voci di una fusione tra Telecom e Telefonica si rincorrono da mesi, ma lo scorso 18 gennaio il ministro spagnolo dell'industria ha chiesto maggiore reciprocità nei rapporti tra Italia e Spagna e subito sono iniziate le voci di un aumento della quota di Telefonica in Telecom. Allora, la Telecom è controllata al 24,5% da una holding che si chiama Telco. Dentro questa società, questo azionista di maggioranza relativa, ci sono la Telefonica spagnola con il 46%, poi le Generali con il 30%, Mediobanca con l'11% e Intesa San Paolo con l'11,5%. Questa è la situazione. Antonio Olivieri, su cosa scommette il mercato in Italia, poi vedremo invece con Michele Calcaterra, che saluto per averci raggiunto in collegamento da Madrid, dove è corrispondente al Sole 24 Ore. Buonasera Michele. Buonasera a voi. Anche invece l'intero piatto, perché qua sembra di capire che ci potrebbero essere degli scambi assolutamente legittimi tra Italia e Spagna, tra grandi gruppi, si è parlato di Autostrade, Abertis, ma insomma, Antonio Olivieri, su che cosa ragiona il mercato? Perché nonostante il governo dica non abbiamo mai autorizzato nulla, l'ipotesi di oggi presente sulla Repubblica che se Telefonica lascia italiana la rete di Telecom Italia, l'operazione si può fare, piace agli investitori. Antonella. Beh, diciamo che a livello a cui è arrivata attualmente Telecom ci sono pochi motivi per cui dovrebbe salire in borsa, se non per un'operazione straordinaria. È chiaro che ventilare l'ipotesi di un'operazione straordinaria come sarebbe una fusione, quindi diciamo una offerta a titoli contro titoli con un evidente apprezzamento della società, chiamiamola preda, insomma quella che di fatto verrebbe acquisita con la fusione, sicuramente è una prospettiva che non può dispiacere alla borsa. Però il problema non è soltanto borsistico e io non credo che la borsa si stia infiammando a vuoto, probabilmente ci sono dei ragionamenti in corso a livello di azionariato di Telecom per il fatto che questa situazione dove c'è un nocciolo consistente ma non di maggioranza assoluta con un concorrente che è anche azionista di riferimento non può durare in eterno. E l'ovvio ragionamento è quello come si esce da questa situazione e si pensa al discorso della fusione. Detto questo, è ovvio che trattandosi di telecomunicazioni non è un argomento che può essere trattato soltanto sul piano finanziario, è ovvio che occorre anche un assenso del governo. Il governo dice non ho dato nessun assenso, però è evidente che dovrà esprimersi se questa ipotesi si concretizzerà. Ho visto dalle dichiarazioni che sono delle dichiarazioni politiche, sono tutte centrate sul discorso dell'italianità della rete, però onestamente non credo che il problema sia solo questo, nel senso che non possiamo dimenticare che comunque Telecom è l'ultimo gruppo delle telecomunicazioni ancora in mani italiane, tutti gli altri, con l'eccezione di Tiscali, hanno azionisti stranieri. È anche il terzo gruppo per dimensioni in Italia, quindi c'è anche un discorso di occupazione, c'è un discorso di strategicità del settore, ma anche di importanza e di rilievo del gruppo. In una battuta, Antonio Olivieri, il fatto che il governo abbia risposto solo sulla rete e che Telefonica abbia detto no comment, secondo te maliziosamente potrebbero indicare che ci tiene solo la rete e quindi il resto della società, quella che invece sulla rete mette i contenuti e i servizi, potrebbe essere oggetto di fusione? Diciamo che queste sono le famose chiacchiere che circolano da parecchio tempo, direi proprio da parecchi mesi. Beh, siamo sotto carnevale, le chiacchiere. Secondo cui un'ipotesi di fusione con Telefonica non potrebbe prescindere dallo scorporo della rete, che resterebbe anche come proprietà prevalentemente italiana. Però anche l'ipotesi di fusione con Telefonica non è vero che ha soltanto questo nodo, ci sono tutti i problemi del Sud America. Certo. Tu hai appena letto la notizia che viene dall'Argentina, Quello è un punto a favore di Telco nella giudiziario, ma la diatriba col governo è tuttora aperta, perché per il governo che sostiene la posizione dell'antitrust argentina, la situazione che c'è in Argentina è il monopolio, questo dicono loro, proprio per il fatto che le due società sono partecipate, cioè che Telefonica partecipa in Telecom Italia. E c'è anche il Brasile, non dimentichiamo che in Brasile le autorità locali hanno disposto che le attività telefoniche di Telefonica, che ha Vivo e l'operatore fisso di San Paolo, nonché di Telecom, che ha Team Brasil, cioè un operatore mobile, devono rimanere rigidamente separate. Se ci fosse una fusione, cosa succederebbe di queste partecipazioni sovrapposte? Che sono molto importanti, soprattutto in Brasile, oltre che quelle in Argentina. Grazie Antonio Olivieri. Allora, Michele Calcaterra, dal fronte, diciamo, vista dalla Spagna, mettiamola così, vorrei capire una tua analisi sul giudizio, sul no comment di Abertis. Ripeto, il no comment è una cosa un po' diversa da dire, da smentire un'ipotesi. E poi vorrei capire se in realtà la vera questione sono anche le altre operazioni Italia-Spagna aperte. C'è De Agostini con la Sexta, c'è Atlantia, ex Autostrade con Abertis, si parla di Eni con Repsol, ci potrebbero essere Atlantia con Ferroviale o con Abrisa. Insomma, può essere che lo sblocco si abbia se in cambio l'Italia ottiene qualcosa, un po' come avvenne quando Enel si comprò Endesa e Telefonica si prese un pezzo di Telecom Italia? Ma tutto è possibile, nel senso che il mondo degli affari gira in ripresa sicuramente e il dialogo tra Italia e Spagna non si è mai interrotto e diciamo anche che si è rafforzato negli ultimi tempi. Ma che cosa dicono gli spagnoli? Gli spagnoli, come hai accennato tu prima, vorrebbero maggiore reciprocità, per cui alla luce di questo è chiaro che c'è così un nuovo movimento, se vogliamo, tra Italia e Spagna. Tutte le operazioni che hai menzionato tu, insomma Atlantia e Abertis, era un'operazione che 3 anni fa era sicuramente molto valida e che ora è da studiare bene, nel senso che Abertis ha una taglia più grande di Atlantia, quindi su Atlantia bisogna metterci qualcos'altro, insomma non sono facili, poi le minestre riscaldate, come dire, lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Eni Repsol, direi che per il momento non mi sembra ci sia molto interesse di Eni per Repsol, c'era stato sicuramente 1 anno e mezzo fa, anzi forse meno. Eni però sta per portare a termine un'operazione a una joint venture con Gas Naturale, anzi con Union Fenosa, e questa dovrà vedere, avrà degli sviluppi nelle prossime settimane. La Sexta e De Agostini è un'operazione obbligata, perché nel momento in cui c'è stata la fusione Telecinco con 4, queste due altre reti televisive private fare da sole, indipendenti, non ce la fanno, e quindi diciamo che è una fusione che è dettata da ragioni di mercato più che di azionariali o tra Italia e Spagna. Ma per concludere, Michele Calcaterra, ma Telefonica ha veramente l'interesse a salire in Telecom Italia, visti i problemi che poi le causerebbe in Sud America, dove appunto i due gruppi sono tra virgolette concorrenti? Telefonica ha sicuramente interesse a lavorare con Telecom Italia, è un matrimonio che, se uno guarda dal punto di vista industriale, è molto complementare, ci sono forti sinergie. Non ha fretta però Telefonica, nel senso che sicuramente non vuol fare un'operazione ostile nei confronti degli italiani, non ha nessun interesse, aspetta e vede, ha i mezzi per poterlo fare. Credo che dal punto di vista industriale possa andare bene, almeno così dicono gli spagnoli, per cui sono, pare che siano anche disponibili a fare concessione, cioè lasciare agli italiani gestire la parte europea per loro tenersi la parte più propriamente dell'America Latina. Ci sono grossi sviluppi che si possono prevedere in Africa e in Cina, insomma credo che converrebbe anche agli italiani vedere un po' più da vicino una fusione. Beh, domani vedremo poi come riaprirà la borsa su Telecom Italia, se è stato così un fuoco fatuo oppure invece le voci, al di là delle smentite del governo e dei no comment di Telefonica, continuano a essere molto forti nelle sale operative. Per ora archiviamo questa giornata con un più 6% di Telecom Italia a 1,14 euro. Grazie anche a Michele Calcaterra in collegamento con noi da Madrid. E archiviamo anche questa puntata di Focus Economia e quindi questa giornata economico-finanziaria con un ultimo aggiornamento dall'America, più 0,86% il Dow Jones, più 0,6% il Nasdaq, euro sempre sotto quota 1,40, 1,39,7. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.